15:40 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e come annunciato nel breve sommario della puntata d'oggi di Silenzio Assordante abbiamo una prima corrispondenza, una corrispondenza con una compagna della rete Campagna in Lotta e nel merito di una mobilitazione insomma che si sta costruendo per il 30 di giugno dalla Puglia alla Calabria contro lo sfruttamento che uccide. Ciao, benvenuta a Silenzio Assordante. Ciao, grazie. Buongiorno. Grazie a te. Allora, innanzitutto, insomma, noi sappiamo perché, insomma, abbiamo spesso, insomma, avuto corrispondenze con voi della rete Campagna in Lotta. Sappiamo, insomma, non è un percorso che sorge su una data estemporanea, è un percorso, insomma, di lunga data, di attivazione concreta al fianco dei lavoratori delle campagne. E appunto vorrei chiederti innanzitutto come si arriva a questa mobilitazione del 30 giugno. Dunque, da una parte c'è un percorso di lotta che, come dicevi tu, insomma, di lungo corso e in particolare che è iniziato con le mobilitazioni di settembre a Foggia dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne rispetto sia alla questione dei permessi di soggiorno che ai diritti sul lavoro, la condizione lavorativa, insomma, penso che sia noto appunto la condizione in cui vivono e lavorano i braccianti e le braccianti, ma anche appunto poi chi provvede alla loro cura, le prostitute eccetera, che vivono nei ghetti del sud. A Foggia appunto è iniziata una mobilitazione che ha portato a dei primi importanti risultati, anche se ovviamente minimi rispetto al diritto alla residenza, rispetto alla regolarizzazione di chi non ha il permesso di soggiorno e quindi non può rivendicare nemmeno condizioni lavorative migliori. Purtroppo, diciamo, è necessario continuare la lotta proprio perché dopo un'iniziale apertura da parte di prefettura e questura, insomma, le misure concrete che sono state messe in campo sono assolutamente insufficienti. In particolare, insomma, la Regione Puglia ha promesso di attivarsi in merito al diritto al trasporto gratuito sul luogo di lavoro e al diritto all'alloggio per i braccianti stagionali, ma fino ad ora, a fronte di proclami e annunci, ancora non si è visto nulla di concreto, ma persiste questa minaccia di sgombero cosiddetto umanitario del ghetto, il cosiddetto Gran Ghetto, che si trova vicino a Foggia. Quindi appunto questa è stata la ragione per cui abbiamo deciso di arrivare a Bari con la mobilitazione del prossimo 30 giugno. Nel frattempo ovviamente è successa la tragica vicenda dell'omicidio di Sekin Traoré alla tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, anch'egli appunto bracciante, iperprecario, iperfruttato, che è morto per mano di un carabiniere, in circostanze ancora tutte da chiarire, anche se ovviamente, diciamo, già anche la procura ha avallato la tesi della legittima difesa senza nemmeno aspettare la chiusura delle indagini. Per cui, diciamo, ci è venuta spontanea ai lavoratori la insomma spinta verso una mobilitazione per denunciare innanzitutto questo fatto gravissimo, questo omicidio di Stato, ma anche le condizioni che poi hanno portato a questo episodio, come a tanti altri. Ricordiamo anche l'omicidio di Mamadou Sarr a Foggia in settembre, un ragazzo che insieme ad altri due è stato colpito da colpi di fucile alle spalle perché accusato di rubare un melone da una campagna. Quindi appunto questi sono episodi purtroppo all'ordine del giorno, in parte diversi ma che nascono tutti dallo stesso, diciamo, humus di razzismo e sfruttamento e segregazione. E ovviamente, diciamo, anche se la mobilitazione è partita da Foggia, si tratta chiaramente di questioni che riguardano tutto il territorio nazionale e che devono essere portate appunto proprio all'attenzione dei responsabili a livello governativo, perché anche le tendopoli di Rosarno sono state decise appunto dal Ministero dell'Interno all'indomani della rivolta. Quindi il tentativo è proprio quello di sottolineare il carattere trasversale, non soltanto territoriale, di questi problemi e delle lotte stesse. Si parla insomma di condizioni di sfruttamento, di anche più che vita, si parla di sopravvivere in condizioni che in realtà escono fuori soltanto davanti appunto o a morti brutali in seguito ad aggressioni o in seguito a morti proprio sul lavoro. Infatti la scorsa estate insomma ha ben raccontato quali sono le condizioni di sfruttamento nelle campagne italiane, ed è insomma anche per questo che mi sembra che le rivendicazioni rispetto alla mobilitazione del 30 giugno, che insomma, come dicevi, ben dicevi, è iniziata a settembre scorso, cerchi di sottolineare tutto diciamo il meccanismo che comporta questo sfruttamento e questa ghettizzazione delle persone che vivono e lavorano nelle campagne. Quindi insomma parliamo anche di un sistema per quanto riguarda leggi sull'immigrazione, così come tutta la questione abitativa, ma così come leggi sull'immigrazione nello specifico, si sottolinea anche come sia l'internamento e l'espulsione delle persone senza un regolare permesso di soggiorno rappresentino un ulteriore ricatto, come anche tutto il circuito dell'accoglienza e della richiesta d'asilo sia poi quello che permette l'ipersfruttamento delle persone migranti. Esattamente, esattamente. Infatti appunto molte delle persone che si trovano a vivere nei ghetti, a lavorare in campagna, sono richiedenti asilo, appunto diciamo che entrano in questa macchina infernale della cosiddetta accoglienza e che per sopravvivere, come ben dicevi tu, appunto diciamo cercano di ottenere qualche giornata di lavoro nero in campagna. E appunto diciamo la dimensione del controllo della mobilità attraverso diversi dispositivi, la legge sull'immigrazione è senz'altro il più importante, ma ci sono anche altri elementi come quello della residenza che rendono questi lavoratori più ricattabili, ed è proprio per questo che come Campagna in Lotta abbiamo lanciato l'idea di costruire una piattaforma con diverse realtà che si interessano appunto della lotta sia sul piano del lavoro che su quello della casa, perché ci sembra appunto che la questione dell'immigrazione e del suo controllo sia strettamente legata a questi altri temi, e ovviamente impatta non soltanto sui lavoratori migranti e le lavoratrici migranti, ma anche su tutte e tutti noi. Quindi appunto abbiamo, diciamo, stiamo costruendo una serie di assemblee, se ne sono tenute già alcune a Torino, a Genova, oggi a Napoli, siamo a Napoli proprio per questo motivo, e speriamo che questo sia un inizio appunto di un dialogo più trasversale per costruire un fronte di lotta il più ampio possibile su questi argomenti, anche perché diciamo è un momento in cui la politica si sta purtroppo attivando per disegnare nuovi scenari, nuovi assetti nel controllo dell'immigrazione, ovviamente in senso sempre più restrittivo e repressivo, dagli hotspot galleggianti al Migration Compact, alla sistematizzazione poi di Frontex come polizia unica della frontiera europea, che viene ovviamente sempre più esternalizzata, vedi anche gli accordi con i diversi paesi africani e tutto ciò che di male questo produce. Quindi appunto si tratta di un momento anche per certi versi di svolta su questo fronte dal punto di vista istituzionale. Assolutamente. Ti chiederei insomma di parlarci un po' nello specifico degli appuntamenti, se è uno unico previsto a Bari o se invece sono due differenti appuntamenti in due territori che hanno caratteristiche molto, molto vicine, ma che insomma, come ben dicevi tu, non riguardano unicamente quel territorio, quel pezzo insomma di territorio nazionale, ma che insomma riguardano anche le città, come abbiamo visto per esempio la logistica, così come anche altre parti del nord Italia. Sì, scusa, forse non sono stata chiara prima. Appunto, il 30 giugno si farà un doppio corteo sia a Bari che a Rosarno, appunto proprio per sottolineare questa trasversalità della condizione dei lavoratori migranti nelle campagne all'indomani appunto di questo brutale omicidio. Quindi l'appuntamento appunto è per il 30 in questi due luoghi. Rosarno ovviamente un luogo simbolico, anche se poi diciamo è impreciso dire Rosarno, perché in realtà la tendopoli sorge sul comune di San Ferdinando, tra l'altro un comune commissariato per mafia, in cui il sindaco pare avesse anche gestito gli affari che riguardano la tendopoli in maniera appunto non trasparente, ma questo è ovviamente la regola quasi dappertutto. Quindi sì, è un corteo, è un doppio corteo il 30 di giugno, un primo tentativo appunto di portare la questione sul piano nazionale, tenendo anche conto che poi chi lavora a Rosarno nella piana di Gioia Tauro è spesso anche sono le stesse persone che poi si spostano su Foggia, sul Foggiano per la raccolta del pomodoro. Allora, per noi sarà importantissimo seguire questa mobilitazione, quindi sia nel giorno specifico, poi sicuramente cercando di fare un resoconto per rilanciare poi anche gli altri appuntamenti, diciamo il giorno successivo sicuramente noi ci diamo disponibili. E riguardo la rete Campagna in Lotta, leggo anche di un appello che sta circolando rispetto l'estate, quindi forse qualcosa che potrebbe anche riguardare compagni e compagne che insomma sono disponibili per spostarsi e dare una mano in altri contesti. Sì, esatto, grazie. Insomma, questo è un intervento che portiamo avanti dal 2012 nelle campagne di Foggia, più diciamo intensivo e concentrato nei mesi di picco della raccolta del pomodoro, per cui se le compagne e compagni ci vogliono appunto dare una mano da metà luglio a metà settembre all'incirca, noi saremo là e ci possono inviare una mail a campagnainlotta@gmail.com. Allora, benissimo, se non hai altro da aggiungere, io vorrei segnalare che insomma avete un sito internet molto aggiornato con sia diversi appuntamenti di lotta, sia l'appello per quanto riguarda quest'estate, insomma di un programma che riguarderà di lotta, che riguarderà tutta l'estate. E appunto se ci sono altri riferimenti web, non so se usate social network. Su Facebook c'è una pagina che si chiama Lavoratori delle Campagne, comitato Lavoratori delle Campagne, che raccoglie un po' appunto sia i comunicati che poi notizie che riguardano il mondo diciamo dell'agroindustria e quello dell'immigrazione. Va benissimo, noi da qui ti salutiamo e ti auguriamo insomma una buona assemblea per oggi e una buona lotta per il 30. Grazie molto, un abbraccio. Ciao. Ciao.